9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno caro ascoltatore, buongiorno da Oscar Giannino per questa versione di Oscar, anche oggi mercoledì 8 febbraio, auguri a chi festeggia San Girolamo, ce ne sono anche altri oggi San Girolamo, ma comunque auguri a Girolamo. Con il tema del giorno, lo sapete, è la comprensione, l'approfondimento di questo comunicato congiunto, di questo che ha segnato ieri l'incontro tra PD e PDL, le due maggiori forze politiche in Parlamento, è un nota congiunta che indica la riforma elettorale con una certa decisione, una certa convergenza, almeno alcuni spunti da approfondire insieme della riforma elettorale in questa legislatura, ma certo è un fatto politico molto rilevante che un po' per l'atmosfera, molto grazie all'atmosfera resa possibile dal governo d'emergenza che impegna le coalizioni in una rapporto politico diverso da quello dello scontro muro contro muro a cui siamo abituati da 17 anni, ma evidentemente anche valutazioni nelle rispettive case del fatto che convenga prendere questa occasione sul serio e sfruttarla. Fatto sta che una nota congiunta sulla riforma elettorale è una notizia di grande rilievo che approfondiremo oggi quindi con i protagonisti. Sentiremo le analisi delle diverse forze politiche intorno al cosa si attendono, quali sono i loro proponimenti, quali sono i margini reali al di là delle dichiarazioni in questa legislatura per ottenere questa riforma, in che quadro oltretutto di complessivo di forma di governo del paese, visto che siamo reduci da 17 anni di scontro molto muscolare reso possibile da leggi elettorali diverse ma bipolariste, senza che poi al bipolarismo e al maggioritario abbiamo adeguato il resto dell'impianto istituzionale. Ed è a questo che io personalmente annetto il più dei problemi: fare una scelta di leggi elettorali diverse ma maggioritarie e bipolariste, con premi di maggioranza anche molto accentuati, con una forma di governo che resta non troppo coerente a questo, crea inevitabilmente dei problemi. Istituire un maggioritario così accentuato, quando invece poi la legge sul finanziamento dei partiti resta ispirata alla iperpolverizzazione del finanziamento, basta meno dell'1% per continuare ad avere i voti, continua a moltiplicare poi le sigle in Parlamento presenti anche quando ci sono stati raggruppamenti o coalizioni insieme. Ed è questo secondo aspetto che i partiti tendono a trascurare, quello che ha reso poi il bipolarismo in realtà capace di moltiplicare i partiti, mentre naturalmente chi non ha mai voluto il bipolarismo e il maggioritario tende a dire che il maggioritario è falso perché moltiplica i partiti, ma dimentica che l'aver continuato ad assegnare i soldi ai partiti in Parlamento a percentuali così basse, perché i partiti e la politica vanno dove vanno i soldi, come è ovvio, e ad aver determinato questo effetto. Sentiremo intanto un minuto e mezzo, due minuti dedicato agli approfondimenti della stampa europea, come sempre, fino a che terremo i doors all'inizio, alla fine della trasmissione. Questo sarà il segnale. E oggi, ragazzi, lo spread a 350-352 punti è un segnale di quelli da considerare, però, perché stiamo piano piano questa discesa dello spread italiano si sta molto molto consolidando. Allora, naturalmente, tutta l'attenzione della stampa europea mondiale e alla trattativa greca. Lo sapete, in Grecia non si riesce a chiudere, neanche ieri sera hanno chiuso di fronte agli annunci le tre formazioni politiche che devono dare il sì alle richieste della Troica, della Banca Centrale Europea, dell'Unione Europea e del Fondo Monetario. In particolare non si è riusciti a chiudere ieri notte in Grecia sulle richieste aggiuntive relative ad abbassare ulteriormente la pensione minima, che attualmente è di 300 euro, e si tratterebbe di accettare tagli ulteriori anche a 300 euro dai 360 euro che sono oggi la soglia della pensione minima in Grecia. Ieri ci sono state massicce proteste, bandiere tedesche bruciate a Piazza Sintagma, sono ricomparse per la prima volta bandiere tedesche con sopra stampate le svastiche e oimè, questo è l'atmosfera. Però il cancelliere tedesco Angela Merkel, riporta la Reuters, ieri ci ha tenuto due volte a sottolineare che l'abbandono da parte della Grecia dell'euro avrebbe conseguenze imprevedibili. Invece la confusione è accaduta ieri, scrive su Deutsche Zeitung, perché membri della Commissione europea hanno iniziato a dire invece che l'euro a questo punto può fare a meno della Grecia, perché è stata Neelie Kroes, la commissaria, la vicepresidente della Commissione europea, ad averlo detto al giornale olandese Volkskrant, ma la novità è che anche a un giornale greco, Tovima, la commissaria greca, il membro della commissione espresso alla Grecia, che si chiama Maria Damanaki, per la prima volta un media greco ha ammesso che l'uscita dalla Grecia dall'euro, dopo tanto tempo che se ne parla, potrebbe diventare la realtà. Questo in Grecia ha acceso, per quanto possa sembrare paradossale, molte speranze, e quindi c'è una parte della stampa greca che stamattina dice: beh, se ce lo dice la commissaria, che non vale la pena tagliarci la testa, le mani, per tutto quello che continuano a chiederci di recessione aggiuntiva, forse. Per questo Angela Merkel è intervenuta due volte ieri a dire: guardate che ci sono conseguenze irreparabili, e ce l'aveva con i membri della commissione. Intanto, dice il Financial Times Deutschland, il problema in Germania, con quelle prese Wolfgang Schäuble, il potente ministro delle finanze, è quello di fare digerire al Bundestag il voto per la seconda parte di aiuti alla Grecia, che è complessivamente di 130 miliardi, e la decisione di Schäuble del governo sarebbe quello di far votare il Parlamento tedesco solo su piccole fette di questi aiuti. Il commento del Financial Times Deutschland è che più si fa piccola la fetta, maggiore diventerà il problema di volta in volta per ottenere il sì del Bundestag. Questo per capire come invece si legga in Germania la vicenda greca. Vediamo un po' i sondaggi, perché io ricordo che in Grecia poi l'accordo è di riandare a votare per l'ennesima volta dopo il sì, dopo l'eventuale sì alle richieste della Troika, e i sondaggi dicono che attualmente il Partito Socialista, che viene visto naturalmente come il peggior responsabile, anche se i responsabili della menzogna di 15 punti di PIL al deficit sono stati prima delle elezioni di due anni fa, quelli, i conservatori, quelli di Nea Democrazia, ma il Partito Socialista, che viene visto come responsabile degli ultimi due anni, anche se non è lui all'origine del guaio, è quinto addirittura in ordine di preferenza, ci dice Katemerini, quinto, c'è cioè solo l'8%, mentre invece chi aveva mentito sul deficit, ma non è stato identificato come maggioranza responsabile degli ultimi due anni, cioè Nuova Democrazia, è alla testa dei sondaggi col 31%. Tra Nuova Democrazia col 31% e il PASOK quinto ci sono tutte formazioni della sinistra radicale, il Partito Comunista, la coalizione di sinistra dei radicali, che stanno tra il 12% e il 12,5%, il 14%, quindi è un quadro di fronte al quale inutile nasconderselo, sarà a quanto pare la forte protesta della sinistra a dover poi gestire il pacchetto di misure, se si riuscirà oggi o domani a esprimere un sì. Con la base elettorale, quello che hanno detto la base elettorale in tutti questi mesi, è molto complicato. Germania, Frankfurter Allgemeine ci informa sulle richieste dei rinnovi contrattuali dopo anni e anni di moderazione salariale. IG Metall, che ricordo è il principale sindacato unitario che rappresenta 3,7 milioni di lavoratori tedeschi, ha chiesto aumenti del 6,5%. La trattativa inizia tra un paio di settimane. La Confindustria del settore Gesamtmetall ha detto: neanche per idea, non se ne parla più del 3%. Attenti che queste richieste salariali avranno un forte effetto, perché essendo in contrazione, in decelerazione, non in contrazione, l'economia tedesca dal terzo trimestre del 2011, dicono gli industriali, se proprio adesso abbandoniamo la moderazione salariale, accentuiamo la decelerazione. l'ultima cosa che volevo segnalare è che su Financial Times Deutschland, come Handelsblatt e come su Deutsche Zeitung, ci sono articoli che plaudono tutti, chi più chi meno, ma con grande forza, in due casi su tre, a Mario Draghi per i suoi primi 100 giorni alla banca centrale europea. Allora, ieri incontro e nota congiunta sulla riforma elettorale, le due delegazioni comprendevano per il PDL Ignazio La Russa, Gaetano Quagliariello, Donato Bruno, dall'altra parte a incontrarsi Luigi Zanda, Gianclaudio Bressa, Luciano Violante. E la convergenza tra le due forze politiche espressa in questa nota comune è stata quella sulla necessità di utilizzare l'ultima parte della legislatura per una riforma elettorale che sia idonea a dare credibilità e forza al sistema politico istituzionale. Leggo tra virgolette: questa comune base d'intesa sembrerebbe raggiunta per il superamento del Porcellum. Gli obiettivi sarebbero ridurre la frammentazione parlamentare, mantenendo però, anche qui tra virgolette, un impianto sostanzialmente bipolare, abolendo le liste bloccate, restituendo agli elettori la scelta dei propri rappresentanti. Quindi qui è soprattutto il punto della restituzione agli elettori dell'indicazione o delle preferenze, a seconda dei sistemi, se siano collegi nominali o di lista, dei candidati rispetto alle liste bloccate, ma sembrerebbe non intaccato il sistema maggioritario e quindi tendenzialmente bipolare. Dopodiché si è discusso anche del quadro più complesso della riforma istituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il rafforzamento della stabilità di governo assieme alla riforma dei regolamenti di Camera e Senato. Però ad aver stupito e colpito molto è che il PDL ha detto con decisione, quindi seguendo anche le indicazioni che Silvio Berlusconi aveva dato, stupendo un po' alcuni, facendo interrogare alcuni sulla serietà di questa indicazione e su quanto fosse condivisa nel partito, ma insomma questo è quello che ieri è avvenuto. Ripeto, le reazioni dei media, e ho finito, sono ispirate in alcuni casi a una robusta dose, lo vogliamo chiamare, scetticismo per così dire, penso all'editoriale che Massimo Franco dedica al Punto sul Corriere della Sera, la cui conclusione è che solo a primavera, cioè a urne chiuse, si comincerà a capire quale possibile direzione potrà prendere questa discussione appena cominciato. Un quotidiano del centrodestra, non il Giornale, che mi sembra molto molto più prudente su questo, ma Libero, spara un titolo in prima: il grande inciucio, comunicato congiunto dei due partiti maggiori, intesa sulla legge elettorale per far fuori gli altri. E c'è un giudizio subito molto secco di Belpietro: è un accoppiamento contro natura, ma forse, però, ammette, è il solo modo per uscire dall'impasse. Repubblica non spara, questa è prima notizia, non spara contro, perché il titolo in prima, che rimanda alle due pagine all'interno, è anzi portatore di un'attenzione positiva. Basta il Parlamento di nominati. Anzi, c'è un'intervista poi di Franco Marini che dice: è l'ultimo treno, la gente è stufa, senza riforma i voti crolleranno. Quindi la notizia è che anche la Repubblica non è contrario. Allora sentiamo dai nostri ospiti l'interpretazione autentica delle diverse forze politiche protagoniste di questo dialogo. Abbiamo con noi per questa prima parte della trasmissione Gaetano Quagliariello, che è il vicepresidente dei senatori del PDL e che magna parse, una specie di delegato, insomma, di ambasciatore vero e proprio a questo tavolo. Io lo ringrazio, buongiorno, grazie senatore Quagliariello. Buongiorno. Allora, ci aiuta a capire la nota, la convergenza, il fatto nuovo c'è, mi pare di averlo sottolineato, che cosa può dirci di più che non ci sia nella nota, di che cosa ci si possa legittimamente attendere come sviluppo? Guardi, io penso che di quella nota si è data molta enfasi, sto vedendo i giornali mentre parlo, a ciò che riguarda la legge elettorale e non alla prima parte, cioè che si sono fatti passi in avanti molto, molto più rilevanti forse per quel che riguarda la riforma delle istituzioni. Bicameralismo, riduzione del numero dei parlamentari, poteri del Premier, materie da assegnare alla competenza nazionale, materie da assegnare alla competenza regionale in modo più netto, per far sì che non sia poi la Corte Costituzionale a decidere sui conflitti. Perché le dico questo? Perché io ho sempre ritenuto uno dei vizi della politica italiana quello di pensare che la legge elettorale sia una specie di bacchetta magica con la quale si modifica tutto. E questa cosa ci ha portato a dei paradossi. Lei si ricorderà che alcuni anni fa c'è chi diceva che sarebbe bastato levare le preferenze per sconfiggere la corruzione e avere un bel sistema elettorale. Ora molti di quelli che dicevano questa cosa vorrebbero reintrodurre le preferenze per lo stesso motivo. Questo che cosa che ci dice? Che la legge elettorale in realtà è uno strumento laico che serve a designare la rappresentanza. Io penso che noi siamo di fronte a una sfida molto più importante della politica. Per cui quello che è accaduto non può lasciarci completamente attoniti, non ci può far mettere la testa sotto la sabbia. Noi abbiamo avuto una dispersione di sovranità, nel senso che gli stati nazionali hanno devoluto una quota di sovranità, questa però non è stata gestita, istituzionalmente dall'Europa e quindi c'è stata una perdita secca. La politica rischia di essere superflua. O si dà degli strumenti oppure questo giudizio si consoliderà nei cittadini. Io ho sentito che lei poco fa leggeva i sondaggi della Grecia, non vorrei che ci trovassimo di fronte a un quadro di questo tipo, magari anche in Italia tra un anno. Questo dipende dal fatto che la politica reagisca o meno e si dia degli strumenti idonei. Quindi il vero obiettivo è quello di fare una riforma dello Stato, di cambiare i regolamenti di Camera e Senato in modo tale che la legislazione sia migliore e venga fatta prima, di mettere i partiti nella condizione di non essere più delle associazioni private, ma di avere uno statuto pubblico. Dopo quello che è accaduto in questi giorni ciò diventa ancora più urgente, e poi evidentemente di fare una legge elettorale. Una legge elettorale che sulla base dell'esperienza di questi anni possa migliorare decisamente quella che abbiamo, almeno su tre aspetti: da una parte creare un rapporto più stretto tra eletto ed elettore, in secondo luogo evitare la frammentazione che comunque questa legge elettorale non è riuscita a evitare, perché c'è un numero ancora maggiore, ancora troppo alto di partiti, e in terzo luogo dar vita ad un sistema, io dico tendenzialmente bipolare, cioè per il quale il bipolarismo sia la fisiologia, ma a volte può anche accadere che un risultato particolarmente equilibrato oppure una grande emergenza nazionale può vedere soluzioni diverse. A questo particolare riguardo, quando lei parla di un risultato particolarmente equilibrato, è ovvio che io penso che dipenda molto da qual è la legge con la quale poi si mettono i principi della rappresentanza. Nel senso, può capitare, se si va a votare con l'attuale legge elettorale, nel senso con l'attuale meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza, al di là poi se ci siano liste bloccate o meccanismi di scelta da parte dell'elettore, dei candidati, ma può capitare con una legge elettorale come questa che in effetti, lo sappiamo, se il margine di prevalenza di una coalizione su un'altra coalizione in presenza di un terzo polo o anche di quarte formazioni non porti a far scattare il premio di maggioranza a Camera e a Senato in maniera analoga. Un conto però è se lo si fa con una legge che ha questo impianto dal punto di vista dell'attribuzione dei premi e dal punto di vista quindi maggioritario. Altro conto è se nel frattempo già si cambia la legge elettorale, perché è ovvio che a quel punto il particolare esito in cui non c'è un netto vincente in entrambi i bracci del Parlamento ha un altro significato. Ecco, come bisogna intenderla secondo lei questa parte del ragionamento che lei fa bene ad ammonirci? Non è la più rilevante, la cosa più importante è lavorare per il quadro più ampio dell'intesa istituzionale, sono d'accordo, ma lei ritiene che sia possibile che PD e PDL si inoltrino anche su questa strada prima della fine di questa legislatura, il che significa che poi i mesi non sono poi tantissimi, c'è l'appuntamento delle amministrative, però poi bisogna lavorarci in maniera indefessa e rapidissima, visto che tutto il resto, toccare la Costituzione, ha dei tempi e dei passaggi e delle maggioranze obbligate, qualificate, previste dalla Costituzione, diverse da quelle della legge elettorale. Allora, le dico su questo tre cose. La prima: nessun sistema elettorale può impedire che qualche volta, in qualche caso, non sia l'elettore a scegliere il governo. È successo ultimamente anche in Inghilterra, che come lei sa è proprio il sistema maggioritario per antonomasia, e si è fatto un governo di coalizione in questo caso. Quello che voglio dire è che un vero bipolarista mette sempre in conto la possibilità di un'alleanza con il suo avversario, che non è il suo nemico. Non è un caso che dopo il risultato del 2006, quel risultato particolarmente in bilico, come lei ricorda, che vide prevalere di 38.000 voti, una cosa del genere, la sinistra alla Camera, quindi di un'inezia, e invece al Senato una situazione praticamente di parità, e Berlusconi disse in televisione, propose a Prodi, facciamo un governo di unità nazionale, perché evidentemente nella nostra concezione gli avversari sono avversari, non sono nemici. Quindi questa è la prima cosa da considerare. Secondo aspetto che vorrei mettere in evidenza è quello dei tempi. Ecco, io credo che il vero problema è l'accordo politico, non i tempi. Le porto un esempio personale. Con il senatore Zanda del PD siamo stati incaricati dal presidente Schifani di riformare i regolamenti del Senato. Come tutti sanno, la riforma di un regolamento è difficile quasi quanto la riforma della Costituzione, perché e ha grande incidenza, perché per esempio riformando il regolamento si può determinare il fatto che il governo abbia tempi certi per i suoi provvedimenti in Parlamento, e si può determinare il fatto che l'attività del Parlamento sia molto più trasparente e non ci siano per esempio i cosiddetti maxi emendamenti, e si può determinare ancora il fatto che ci sia una corrispondenza tra le liste che si presentano alle elezioni e i gruppi parlamentari, evitando quei casi di trasformismo, di transumanza, che come lei sa sono state una caratteristica delle ultime tornate elettorali. Ecco, noi per 2 anni abbiamo affinato questo lavoro, ma non siamo riusciti a consegnarlo. Nel momento nel quale è caduto un velo di ignoranza, perché non si comprendeva più per il nuovo quadro politico se una determinata norma desse vantaggio al PD o al PDL, al centro-sinistro o al centro-destra, noi abbiamo chiuso il lavoro in 4 giorni e abbiamo consegnato questo documento. Io credo un po' per le riforme sia la stessa cosa. Quindi il problema è un problema di volontà politica, e comunque è bene avere un quadro e un'idea di riferimento di che cosa vogliamo fare con le istituzioni per poter cambiare la legge elettorale, perché la legge elettorale è come le intendenze, segue, non precede. E se posso aggiungere una cosa, se si comunica bene, credo che ai cittadini interessi meno della legge elettorale che del fatto che un governo duri un'intera legislatura, che il Parlamento faccia una legge nella metà del tempo che ci mette ora, che un primo ministro possa licenziare un suo ministro se non è d'accordo sulla linea politica, cioè che l'Italia diventi una democrazia moderna ed efficiente come altre democrazie europee. Questo è il vero modo, a mio vedere, di affrontare e aggredire il problema del costo della politica, perché se noi facciamo questo la politica torna ad essere una risorsa e finisce di essere immaginata come un costo. Condivido, quindi auguri e forza e convergenza al lavoro del Quagliariello e della controparte. Eccoci qui tornati, stiamo interrogandoci oggi su i confini, le possibilità, le potenzialità di sviluppo e il significato di questo incontro tra PD e PDL, che ieri ha emanato poi una nota congiunta sui temi della riforma istituzionale, della riforma elettorale. Abbiamo sentito le parole cariche di speranza, insomma, molto positive di Gaetano Quagliariello, vicepresidente dei senatori del PDL. Ora ci ha raggiunto l'onorevole Renzo Lusetti, che è un deputato dell'UDC ed è responsabile nazionale per il partito del Dipartimento elettorale, quindi Terzo Polo. Io lo ringrazio, buongiorno onorevole Lusetti. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E anche con noi Gianclaudio Bressa, che è capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali della Camera e che anch'egli, lo abbiamo letto sui giornali stamane, era all'incontro di ieri. Grazie, onorevole Bressa. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Non so se ha sentito Bressa le parole di Quagliariello prima, erano di un totale affidamento, di fiducia sulla possibilità di andare avanti davvero, cogliendo questa occasione, non solo sulla riforma elettorale, ma non si è tirato indietro sulla riforma elettorale per ritornare a un'espressione del diritto dei cittadini, ma sul quadro più complesso, addirittura cambio di regolamenti parlamentari, eccetera, tutti i punti della nota di ieri. Però dice: non c'è nessun doppio gioco, nessun sottinteso, noi andiamo avanti e ci sembra di poter contare su una convergenza vera. Dal vostro punto di vista, le sensazioni e gli sviluppi possibili, Bressa? Ma io glielo confermo, nel senso che il dato positivo dell'incontro di ieri è proprio questo, cioè la manifestazione di una volontà reale di provare a fare la riforma costituzionale e la legge elettorale. Sono da questo punto di vista anch'io ottimista. I tempi, secondo lei, rispetto alla legislatura, al fatto che è difficile immaginare che possiate mettervi davvero d'accordo, potete affinare, ma prima delle amministrative ci sono delle ovvie cose per cui le divisioni politiche poi contano, ma i tempi che restano poi nella legislatura fino alla prossima primavera li vede compatibili con le maggioranze parlamentari qualificate anche delle riforme che tocchino questioni costituzionali? Ma io credo di sì, vedere le riforme costituzionali, quando c'è un accordo politico di fondo e preliminare, si fanno in tempi rapidi, quando ci sono visioni contrastanti che il processo riformatore si arresta. Credo che questo possa essere molto buono. Noi abbiamo tempo realisticamente fino alla fine dell'anno, massimo gennaio dell'anno prossimo. La condizione per cui si riesca però a fare tutto questo è che Camera e Senato si dividano i compiti. La Camera avvia le riforme costituzionali, o il Senato, è indifferente, e l'altro ramo del Parlamento affronta la legge elettorale. Infine, Bressa, questa questione, questa convergenza, ritiene che possa complicare molto i rapporti politici con formazioni con cui, in vista delle amministrative, bisognerà vedere se anche alle politiche, poi ciascuno dei due partiti pivot delle due ex coalizioni precedenti deve continuare a fare i conti. Quali sono le conseguenze politiche? Noi da questo punto di vista ieri siamo stati molto chiari durante l'incontro, abbiamo detto che la portata di queste riforme è tale che non può essere fatta dal PD e dalla PDL, ma deve vedere il coinvolgimento di tutte le forze presenti in Parlamento e anche le forze significative che in questo momento non sono presenti in Parlamento. Quindi non credo che ci saranno colpi di coda rispetto alle competizioni elettorali. Confido che davvero sia la volta buona per girare pagina per la Costituzione e la legge elettorale. Lusetti, ci dà una prima valutazione al volo dal punto di vista del Terzo Polo, dell'UDC, insomma di una parte politica poi che ha avuto un certo peso rilevante nell'indicare poi la soluzione verso la quale lo sviluppo politico e di governo italiano è stata obbligata ad andare e finalmente poi per fortuna è riuscita ad andare, secondo me. Come valutate la nota di ieri e i toni che sentiamo stamattina, molto costruttivi e positivi, Lusetti? Sì, noi valutiamo positivamente l'incontro, non crediamo all'inciuccio come qualche giornale dice questa mattina, crediamo che sia da parte del PD sia da parte del PDL ci sia un intento positivo di coinvolgere anche le altre forze politiche, non solo UDC e Terzo Polo, ma anche la Lega, l'Italia dei Valori, anche coloro che sono fuori dal Parlamento, per fare una riforma che sia condivisa da più forze politiche possibili e che sia finalmente il viatico per rendere un pochino più vicina la politica alla gente. Bressa, non siamo ancora a schemi, vero, più o meno condivisi di quale modello di riforma elettorale, no. Siamo solo a principi. Assolutamente, sono stati indicati degli obiettivi politici da raggiungere e adesso il vero sforzo, il vero passo in avanti è quello di tradurre queste idee in un'ipotesi concreta di proposta di legge, ma questa non è una cosa che fanno noi del PDL, sarà il Parlamento chiamato a farlo. Per esempio, come io auspico, sarà la Camera a occuparsi di legge elettorale, sarà la prima commissione in cui questo processo verrà e quindi con il concorso di tutti. L'unica cosa che non credo sia accettabile in questo momento per un ragionamento di responsabilità è che qualcuno si erga in una posizione tale da porre veti, con questo che sarebbe incomprensibile per tutti. Va bene, Lusetti, la sensazione, questo però i giornali ci mettono molto del proprio, però la sensazione, visto che più dei giornali oggi scommettono su una ipotetica soglia di sbarramento che non è del 5% ma è del 4% alla tedesca, il 5% alla tedesca, 4% già i giornali iniziano a dire potrebbe essere questa, cioè che ci sia in realtà sì una soglia di sbarramento, ma che poi la proliferazione della rappresentanza in Parlamento non è affatto detto, sarebbe davvero vincolata. Che sensazione ha? È la stampa che fa un po' fantasia, Lusetti, oppure effettivamente il punto di convergenza poi da trovare minimo e va in quella direzione? Secondo me appunto il punto di convergenza va in quella direzione, cioè l'idea della soglia di sbarramento è abbastanza condivisa da tutti, insomma, credo che sia più complicato il riferimento al premio di maggioranza, ecco, è evidente che noi siamo per togliere il premio di maggioranza per una serie di motivi, ma anche su questo diciamo non troviamo molti muri, ecco, c'è disponibilità a discutere. Però sulla soglia di sbarramento mi pare che sia il minimo per poter avere un sistema politico abbastanza semplificato e non troppo variegato come è accaduto in passato. Lusetti, lei che pensa rispetto al fatto che la proliferazione delle sigle in Parlamento in realtà è figlia, questa è la mia opinione almeno, può essere che non sia condivisa, lo capisco, ma io ho l'impressione che si dipenda più che dall'effetto zoppicante del maggioritario italiano, cioè dalla presunta innaturalità delle coalizioni, che è vera perché l'eterogeneità delle coalizioni da una parte e dall'altra è stata il tratto dominante di questi 17 anni e i governi poi si sono divisi, ma detto questo, che la proliferazione dei partiti in Parlamento si debba al fatto che poi il finanziamento pubblico ha continuato ad avere una logica proporzionalistissima nel dare il contributo elettorale a chi aveva raccolto meno dell'1% dei voti, fossero le europee o fossero le regionali o fossero le politiche. Non è un po' questa discrasia? Secondo lei questa discrasia ha avuto un senso e ha ancora un senso mantenerla così, Lusetti? No, secondo me no. Cioè io penso che il bipolarismo di questi 17 anni sia sostanzialmente fallito, sia perché le coalizioni erano veramente talmente eterogenee che hanno prodotto di tutto e di più, insomma, sia nell'area più moderata, sia nell'area diciamo più di centro-sinistra, come ha dimostrato anche il fallimento dei governi Prodi e Berlusconi, dovuti essenzialmente alla eterogeneità delle forze che stavano in campo. In più devo dire che la legge sul finanziamento, sui diciamo, rimborsi elettorali sicuramente non ha aiutato il bipolarismo, perché adesso la norma è cambiata, però si davano soldi anche ai partiti che non sono più presenti nella legislatura, eccetera. Poi si dà finanziamenti anche a quei partiti che ottengono una percentuale molto bassa e non hanno neanche l'accesso in Parlamento. Quindi è evidente che questo qua è un falso bipolarismo. Dai. Bressa, la prima di salutare entrambi, conferma quello che ci ha detto Quagliarello, si riesce a toccare anche il punto dell'accountability dei partiti sulla finanza pubblica, sui contributi elettorali che ottengono, perché questo ci ha detto Quagliarello. La legge elettorale sì. Ha un senso anche affrontare tutte le cosiddette leggi di contorno, cioè le cose che riguardano l'organizzazione dei partiti, il finanziamento dei partiti, credo che sia più che ragionevole immaginare che anche questa sarà una proposta che possa trovare una positiva conclusione con il Parlamento. Grazie allora all'onorevole Bressa e all'onorevole Lusetti, noi abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi le vostre telefonate. This is the end. Beautiful friend. E concludiamo anche oggi con i Doors. Da una parte si conferma lo spread, si scende sotto i 350 punti base oggi, dall'altra è uscito il dato dell'export tedesco nel 2011 che ha superato per la prima volta il tetto del trilione di euro, i 1.000 miliardi di euro, con un aumento dell'11,4% sul 2010. Cari signori, il benchmark è quello. chi dice che non si può tagliare spesa pubblica e tagliare le tasse di 6-7 punti in 6 anni come hanno fatto loro. Nel frattempo, cambiando il welfare e invece che alzare i contributi e pensare che così si diminuisce il precariato, rendere incentivante attraverso basse pretese fiscali e contributivi l'emersione di quel lavoro precariato e nero, dice una cosa che è menzogna. L'ha fatto quel paese che stava peggio di noi, quello deve essere il modello al quale questa convergenza sui temi elettorali istituzionali, io spero voglia spingere il governo dei tecnici. Una spending review non di 10 miliardi di euro di spesa in meno, ma di 4, 5, 6 punti in 6-7 anni. L'esercizio della delega fiscale, che resta in mano come lo strumento più potente di riordino dell'intervento fiscale, al di là della batteria di misure di incrudimento fiscale, che sono l'80% delle manovre approvate per i prossimi 3 anni in Italia, c'è questa delega fiscale. Sento che il governo la vuole cambiare, non ho capito in base a quale criterio. Bisogna invece concentrare quei 200 miliardi di deduzione e detrazione su 3 cose: la famiglia, la crescita, cioè il lavoro, e l'impresa. Per il resto lo Stato deve rinunciare a essere un ostacolo. Io credo che i risultati tedeschi ci dicono che è possibile, stava messa peggio di noi. Chi dice di no mente. Si vuole mantenere lo Stato pingue, uno Stato che, a differenza della madre che ti dà sangue e latte, te lo leva. Questa è la differenza mia. Sarà una ricetta elementare, ma chissà che invece non sia quella giusta. Sentiamo come la pensate voi col telefonato invece sui temi di oggi. Claudio da Savona, prego Claudio, confida in tutta questa svolta che abbiamo sentito sviolinante oggi dagli esponenti politici? Ma io ho un dubbio dato da, sicuramente dall'ignoranza, perché poi alla vostra trasmissione telefono persone molto ferrate, ma il mondo è fatto di gente anche come me, no, un pochino meno. Ma si figura. Quindi adesso questo mantra della legge elettorale da cambiare, io anche lo ripeto a pappagallo, ma poi mi chiedo, ma è effettivamente così? Io quando sento parlare del maggioritario, tanto per fare un esempio, io sono convinto che noi il maggioritario in realtà non l'abbiamo mai avuto, non sappiamo neanche cosa sia, abbiamo fatto il solito pasticciaccio all'italiana dove poi il Parlamento è rimasto una cozzaglia di 1000 partiti e partitini, ecco, io penso, poi il modo non lo so, se no fare un altro mestiere, ma che si dovrebbe trovare un sistema dove chi vince comanda, dove siano impossibili o perlomeno dove si possa limitare al massimo le coalizioni, perché non esiste che io sono stato Claudio, la interrompo per dire, lei in altre parole dice abbiamo avuto una legge che ha cambiato i premi di maggioranza, ma quello è stato il principio, ma non abbiamo avuto una cornice costituzionale di forma di governo coerente. Infatti il premier non può né decidere la data dello scioglimento né la formazione del proprio governo, cioè non può dimettere ministri. È evidente che a un certo punto Berlusconi avrebbe voluto farlo, per esempio su Tremonti, lo leggiamo sui giornali di oggi il perché a distanza di mesi, ma non può farlo. Io condivido molto quello che dice. Il problema è che i partitini e i partiti piccoli hanno sempre opposto una resistenza all'impossibilità di cambiare la forma di governo su questo, continuando a esercitare veti anche se avevano partecipato a coalizioni più ampie, in nome del fatto che tanto i soldi, come ho detto prima, abbiamo continuato a darli a chi aveva almeno dell'1%, e quindi sa, i partiti antepongono la propria sopravvivenza in vita all'efficienza generale. Questa è la mia esperienza di anni, mi porta a dire questo, e non è un giudizio antipolitico. Bruno dalla provincia di Cuneo, prego Bruno. Buongiorno. Dottor Giannini, io intanto quando l'ascolto sono niente cosa... complimenti, andiamo al punto. No, da una dicotomia, perché da una parte sento quello che dice, dico Dio c'è, e dall'altra mi fermo alla prima stazione, alla canna del gas. Ah, lo capisco. Detto questo, mi ponevo un dubbio e lo pongo anche a lei. Ma com'è possibile che questa classe politica, cioè, che si è autodefinita classe politica, credo anche troppo generosamente, sia la stessa gente che non ha visto quello che stava succedendo nel paese negli ultimi 20 anni e adesso pretende anche di porre dei correttivi? Ecco, io... è una bella domanda, però sa com'è, Dio per chi ci crede dà un'ampia possibilità di redenzione anche il più consumato dei peccatori, e quindi per chi ci crede è questo. Chi crede nella logica crede che a furia di sbagliare si possa ogni tanto correggere, provando e riprovando. Noi siamo alla fine di questa trasmissione, mi perdonino Giacomo da Milano, Bruno ancora da Cuneo, Claudio dalla provincia di Brescia, perché tempo non c'è più, io vi devo salutare perché lo sapete, altrimenti ci tagliano irreparabilmente, perché grazie al cielo c'è ancora un po' di pubblicità, sempre che io non la distolga troppo. A domani. 9 in punto, la versione di Oscar.